in primo piano. Martedì 5 luglio, ancora la manovra a prendere tutte le prime pagine dei giornali, in particolare questa norma che è spuntata letteralmente e di cui parliamo tra poco. Intanto il Sole 24 Ore, il titolo di prima pagina: tagli da 5 miliardi per i ministeri, assicurazioni, l'IRAP aumenta di 2 punti. Ma in prima pagina c'è anche, appunto, all'esame del Quirinale la norma nascosta sul lodo Mondadori. Eccola qui, questa norma è invece il titolo praticamente di prima pagina di tutti gli altri quotidiani. Per il Corriere scoppia il caso del lodo Mondadori, nella manovra una norma che sospende i maxi risarcimenti. Repubblica, manovra salva Berlusconi. Per La Stampa spunta la norma salva Fininvest. Per il Fatto Quotidiano frodo Mondadori. Per Libero Silvio fa fesso De Benedetti, scherzetto nella manovra. Il Messaggero scontro su norma pro Fininvest. Per l'Unità c'è una foto di Berlusconi, Tremonti, Alfano col titolo La banda del lodo. Avvenire, una manovra con brividi, lodo Mondadori, scudo per il Premier. Per il Manifesto, comma da cancellare, c'è una foto che ritrae la Fininvest in sottofondo. Il Giornale invece titola l'inchiesta dove buttano i soldi, dopo 43 anni ancora paghiamo per il terremoto del Belice. Inizia così un'inchiesta di qualche giorno. Allora, della norma pro Fininvest, della norma spuntata, parleremo più avanti dopo la pubblicità. Le segnalazioni da cui voglio partire sono, la prima è questa: Luigi Ferrarella racconta una storia kafkiana, bisogna proprio dire, sul Corriere della Sera, diciamo di una di quelle storie nelle quali non so voi, ma io spesso la vivo come uno degli incubi possibili. Cosa può essere uno degli incubi possibili? Finire in carcere da innocente. Il medico scambiato per un narcos in cella 8 mesi. Dal Corriere della Sera, pagina 22. Svegliarsi un giorno nella propria casa di professionista e marito, padre spagnolo, e trovare che la polizia viene a prenderti per farti scontare in Italia 15 anni di carcere per traffico di droga, in forza di una sentenza definitiva, di un processo nel quale nemmeno avevi saputo di essere stato mai sottoposto in 3 gradi di giudizio. Tu che urli «ci deve essere un errore» e loro «dicono tutti così». Ti estradano dalla Spagna in Italia, è successo, condannato definitivo a 15 anni come narcotrafficante colombiano, anche se lui è spagnolo, operante in Italia, anche se lui non c'è mai stato, soprannominato il gordo, cioè il ciccione, anche se tu sei magro, con una figlia, anche se lui ha un figlio. Ebbene, questa vicenda kafkiana l'ha portato in carcere, solo dopo 8 mesi ha rischiato di impazzire questo osteopata spagnolo, 42enne, che ha iniziato a studiare il processo. Vengono pubblicate anche le foto, le 2 foto sono clamorosamente diverse, quelle del gordo, di questo narcotrafficante colombiano, e quello di questo osteopata, faccia smunta, occhialini tondi. Al carcere di Opera poi incontra, ed è un incontro clamoroso, provvidenziale, un complice di questo El Gordo che è stato condannato, che dice: guardate che lui non c'entra niente, vi dico io lui chi è, era l'osteopata di mia moglie, quando mia moglie è andata una volta a casa sua gli ho rubato il passaporto, l'ho dato questo passaporto a El Gordo, a questo criminale, ed ecco da qui, da questo furto di passaporto, questa vicenda di un medico scambiato per un narcotrafficante colombiano, prelevato in Spagna, portato a scontare una sentenza definitiva di 15 anni in Italia, fortunatamente, si può dire fortunatamente, nel senso che 8 mesi sono tanti, però è riuscito almeno a dimostrare, anche per un incontro casuale, che lui non c'entra nulla. Ma davvero una storia incredibile, quella raccontata da Luigi Ferrarella oggi sul Corriere. E poi sulla Stampa, una vicenda che era già emersa nel weekend, l'avevo vista su qualche giornale, sta succedendo un putiferio al comune di Firenze. Badge per fumare, bufera su Renzi. A pagina 22 della Stampa, nell'ufficio anagrafe al comune di Firenze, forse qualcuno che ci ascolta lavora lì, ce lo può dire, sono costretti a timbrare alla pausa sigaretta. Uno va a fumarsi una sigaretta per 10 minuti, deve timbrare e poi deve recuperare i 10 minuti. Maria Vittoria Giannotti racconta: se vuoi fumare, timbra il cartellino. I minuti persi per concedersi la pausa sigaretta non devono essere conteggiati nell'orario di lavoro. Una rivoluzione. che potrebbe piacere al ministro Brunetta, è partita dall'ufficio anagrafe di Palazzo Vecchio e il sindaco Renzi dice: non torno indietro per nulla, togliere questa regola non ci penso neppure, anzi ora medito di estenderla a tutti 5.000 i dipendenti comunali di Firenze. Con un'intervista anche a Vittorio Messori, scrittore, fumatore incallito, che dice: non se ne può più, in Italia solo con tre categorie ce la si prende ormai, i fumatori, i cacciatori e i cattolici. Su questo lui è un cattolico, su questo si può dire di tutto, sugli altri è tabù. Se tu dici qualcosa su un nero, un ebreo, una donna, un omosessuale, niente di razzista. Semplicemente dici che tu non sei così, che sei differente, rischi il linciaggio. Mentre se la si prende ormai solo con fumatori, cacciatori e cattolici. Vabbè, insomma, il badge per fumare bufera al comune di Firenze. Ripartiamo allora da questa norma. Lodo sul lodo Mondadori tra 7 minuti. In primo piano. Alle 7:34 minuti, allora i giornali si concentrano molto sull'analisi della manovra finanziaria e in particolare su questa norma che è letteralmente spuntata, il caso di dirlo, se ne sono accorti tutti ieri, questa norma che è stata già ribattezzata norma Profininvest o norma fatta per la situazione Lodo Mondadori. Ovviamente vale per tutti, ma è chiaro che da tutti i giornali è letta così. Di cosa si tratta? Bisogna leggere il Sole 24 Ore per capirlo bene. A pagina 2 Giovanni Negri: spunta la norma Profininvest, è scontro. Alla fine la norma tanto attesa, ottemuta, spunta per davvero. Annidata tra le pieghe del testo della manovra inviata al Quirinale, trovano spazio poche righe inserite alla fine di un articolo dedicato alle misure sulla giustizia, poche ma micidiali, per gli effetti politici e per la coda di polemiche che si tirano dietro, sino a poter compromettere la firma del capo dello Stato. Perché intervenire a gamba tesa nella causa sul lodo Mondadori, coi giudici vicini alla sentenza attesa per il fine settimana, dopo che in primo grado Fininvest è stata condannata a pagare 750 milioni di euro alla CIR di Carlo De Benedetti, significa anche complicare gravemente il percorso della manovra. Ed ecco allora di cosa si tratta questa norma. Sono due piccole modifiche al codice di procedura civile per stabilire che quella che sino adesso è una semplice facoltà del giudice, vale a dire sospendere l'esecuzione di una sentenza di condanna in attesa del verdetto del grado di giudizio successivo, diventa un obbligo, un vincolo cui il giudice non si può sottrarre quando la condanna riguarda in primo grado somme superiori a 10 milioni di euro, in appello a 20 milioni. La traduco se non l'avete capita così, cioè al momento in caso di cause civili il giudice può decidere di sospendere l'esecuzione del pagamento fino alla Cassazione, è una facoltà. Con questa norma si rende obbligatoria la sospensione fino al terzo grado di giudizio per le cause nelle quali in appello c'è una condanna sopra i 20 milioni. In questo caso la condanna in primo grado, e sabato prossimo dovrebbe essere attesa la sentenza d'appello per il caso Lodo Mondadori, ha portato Fininvest in primo grado a dover dare a De Benedetti 750 milioni. Insomma, per tradurlo ulteriormente, con questa norma verrebbe, in caso di condanna confermata anche in appello, sospeso fino all'eventuale terzo grado di giudizio il pagamento da parte di Fininvest alla CIR di De Benedetti. Immaginate le reazioni politiche. Silvio Berlusconi, secondo il Corriere della Sera, Marco Galluzzo, alle persone che ieri lo hanno incontrato ha detto: non si capisce per quale motivo una norma giustissima diventa sbagliata se riguarda anche il Presidente del Consiglio. Ma le reazioni politiche sono molto dure. Repubblica, ovviamente anche interessata, Repubblica, visto che l'editore è proprio Carlo De Benedetti. Al Quirinale scatta l'alto là, il colle pronto alla bocciatura. Per la verità questo lo scrive anche Dino Pesole sul Sole 24 Ore, cioè che questa cosa abbia irritato i consiglieri del presidente Napolitano è dir poco, nel senso che è una norma spuntata nella quale nessuno sapeva nulla fino a un giorno fa. Secondo Francesco Bei di Repubblica è una norma che che è stata inserita nel passaggio da Via 20 Settembre, cioè il Ministero del Tesoro, a Palazzo Chigi, prima che il decreto venisse trasmesso al Colle per la firma. Insomma, per Repubblica Tremonti non ne sapeva nulla, mentre i responsabili sono la filiera Berlusconi, Ghedini, Alfano. Ghedini dice: voi sapete bene che io mi occupo di penale, non so nulla di civile e dunque questa norma non l'ho scritta io. Insomma, adesso c'è anche un po' il gioco al rimpiattino: chi ha scritto il giallo, di chi ha messo e chi ha inserito questa norma spuntata. Uno molto duro è anche il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio, che firma una nota in prima pagina dal titolo "Errori da correggere" e scrive Marco Tarquinio: qualche volta rischi e fischi si mescolano in modo inestricabile e più che motivato. Si possono, forse si devono bloccare per un altro anno il turnover e gli aumenti di stipendio nella pubblica amministrazione. Si può persino decidere che in questo paese, dove l'evasione fiscale è scandalosa, ricchi a cui chiedere di più siano i pensionati che incassano trattamenti previdenziali da, udite udite, 1.428 euro lordi al mese. Ma non si capisce perché i tagli ai costi della politica siano tutti orientati al futuro. E non si capisce, soprattutto non ci si capacita, del motivo per cui in una manovra così aspra e dura debba saltar fuori una norma che in sé può avere una logica, ma che oggi appare tagliata su misura per una vicenda, Lodo Mondadori, che riguarda un'azienda di famiglia del Premier. I rischi di una simile scelta sono più forti perfino dei fischi che scatena. Tutto si può capire, ma non tutto si può spiegare e accettare. E gli errori si correggono. Quest'ultima frase fare forse un invito esplicito a dire, insomma, quello che si chiede il Fatto Quotidiano. E ora Napolitano firmerà questa manovra con questa norma. Insomma, sulla manovra i giornali si interrogano soprattutto su questo. Che cosa c'è da dire poi? Che è saltato, pare, nella versione definitiva, il taglio agli incentivi alle rinnovabili, che era fortemente voluto dalla Lega perché quei soldi si potevano utilizzare per far risparmiare nelle bollette degli italiani, ma salta il taglio agli incentivi, come chiedeva il ministro dell'Ambiente Prestigiacomo. Si scopre anche, questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore, che ci sono tagli alla spesa dei ministeri per 5 miliardi e tutti i dettagli oggi il Sole li pubblica a pagina 3. Torna la norma antirinnovabili, anche il Sole lo scrive. Palazzo Chigi poi la cancella, anche qui c'è un po' un giallo. In ogni caso, Saverio Fossati e Marco Mobili si concentrano sui tagli ai ministeri. 5 miliardi di euro nei prossimi tre anni, mentre tra spese e minori entrate da coprire il conto della manovra per i primi due anni sfiora i 9,6 miliardi di euro. Ci sono tutte le novità introdotte sull'ICE, le politiche agricole, il personale della sanità, il patto stabilità degli enti locali. Insomma, questi tagli di 5 miliardi per i ministeri, così come spunta, o meglio, c'è un'analisi sui giornali di quella che è definita, Libero è impietoso, la definisce ai Giulio ci ha messo una patrimoniale. Eccolo qui, diavolo di un Giulio, c'è la patrimoniale, una stangata sui bot e le azioni. Ufficialmente si chiama bollo annuale sulle comunicazioni relative al deposito titoli. Ne parla anche il Sole 24 Ore a pagina 6, è il bollo sui dossier titoli che salirà fino a 380 euro. Il governo torna a mettere mano all'imposta di bollo sul deposito titoli, il balzello che secondo le bozze della manovra usciva più che triplicato, per questo aveva destato più di un allarme tra risparmiatori e cassettisti. Il problema è che la tassa sul dossier titoli diventa, al base al testo della finanziaria, se possibile, ancora più gravosa. L'aumento degli attuali 34,20 euro annuali ai 120 varrà infatti fino al prossimo anno, e dal 2013 l'imposta diventerà di 150 euro annuali relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascuna banca sia inferiore a 50.000 euro, e salirà questa tassa fino a 380 euro per i dossier contenenti titoli per un valore nominale superiore alla soglia di 50.000 euro. Libero la mette così: Giulio ci ha fatto la patrimoniale. L'aumento della tassa sui dossier titoli è paragonabile, secondo Franco Bechis di Libero, a un'impennata dall'attuale 12,5 al 35% del prelievo sui bot. E questi sono i calcoli che fa il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Per questo, per questi altri motivi, Susanna Camusso, leader della CGIL, fa un'intervista all'Unità, pagina 10 e 11, dice: in questa manovra colpite le famiglie e i pensionati, sono i sacrifici per un futuro peggiore. Dice la Camusso: si vuole tagliare a favore delle famiglie, tagliate le accise della benzina, non per esempio gli incentivi alle rinnovabili, è una manovra che grava sulle famiglie e i pensionati. A proposito delle accise della benzina, se aumentate la benzina fa segnare, abbiamo sentito, un nuovo record. Yuhu. Bene, andiamo alla notizia politica, che è anche una notizia politica, anche se di cronaca, lasciando la manovra, la questione del Notav, la questione degli scontri. Ne parleremo alle 8.20 col sottosegretario agli interni Alfredo Mantovano, per capire se la pensa come il ministro Maroni, che dice: sono come i terroristi i violenti della Tav. Tra l'altro ora ci sono le polemiche del giorno dopo, c'è per esempio due belle storie che voglio raccontare. La prima, il padre di una delle fermate, di una delle arrestate, o meglio fermate effettivamente in questo momento, il padre di Marta Bifani, sentito da Nicolò Zancan a pagina 9 della Stampa, esordisce così: non pensavo che mia figlia fosse così idiota. Raggiungiamo: se avessi capito perché Marta si è ridotta in quel modo, avrei fatto in tempo a evitare certe cose, ma sinceramente lo ignoro. Questo signore abita a Fidenza, un condominio anni 70, inganna il tempo scrivendo poesia, alle 3 di pomeriggio risponde al telefono dicendo come l'hanno arrestata, e poi racconta di una figlia oscurata sulla via di Bologna invece che folgorata sulla via di Damasco, dove ha conosciuto un ragazzo di un centro sociale, diventata prima vegetariana, poi vegana, animalista convinta. Ogni tanto sì, ci vediamo, ultimamente ha perso anche la madre, una vera tragedia. E da qui insomma una serie di escalation, anche di arresti, insieme a lei altre persone, una serie di denunce accumulate per guerre contro gli sbirri, come le definiscono loro. In ogni caso, Marta, ex impiegata sulle barricate, il padre ora dice: ditemi dove ho sbagliato. Mentre l'altra storia da cui voglio ripartire dopo il traffico è quella del sindaco di Chiomonte, che è proprio il luogo dove c'è, dove ci sono gli scavi, dove ci sono anche questi scontri. Il sindaco dice: mi insultano per strada perché io ho detto sì alla TAV. Ora dovrò comprare letteralmente e pagare degli uomini perché mi facciano la scorta. In primo piano. Il sindaco di Chiomonte Renzo Pinarda esordisce con il Corriere della Sera pagina 9 in un'intervista ad Andrea Galli. Così: neppure il mio testimone di nozze mi saluta più. Ci conoscevamo fin da piccoli, mi ha cancellato. Non sono un notav, dunque non merito nemmeno la parola. Se mi vedono a far benzina mi urlano fai schifo. Se le finestre del comune sono aperte intonano passando infame, bastardo. Se incontrano i miei parenti al bar dicono siete una famiglia di traditori. Escono dal bar dicendo non stiamo dove state voi. 55 anni, Renzo Pinard dovrebbe fare l'imprenditore, ha 4 aziende, vorrebbe fare il sindaco di Chiomonte, 1000 residenti, gli piacerebbe far finta di niente, ma dice ora dovrò aumentare la sorveglianza, le misure di sicurezza e quanto a me mi procurerò e pagherò uomini per la scorta. Sconta il suo notav, tu meriti di morire, così mi dicono. Oh, buonasera sindaco di M, ogni volta che mi incrociano. Insomma, anche questa, anche queste piccole tragedie personali, insomma, di vite stravolte sicuramente, di rapporti distrutti, è la storia di questa infrastruttura, che sta veramente, anche non solo noi la vediamo magari da tutta Italia come ordine pubblico, ma leggere una storia del genere, anche una storia umana, sicuramente colpisce, e colpisce moltissimo. Noi parliamo del nostro sondaggio di questa diatriba sull'onda del concetto di libertà di stampa che è nata tra Mentana e Santoro dopo la rottura del rapporto, tra, o meglio la mancata firma Santoro, la 7, Santoro accusato di fatto, è stato il conflitto di interessi il problema maggiore, al che Mentana ha detto ma no, vieni qui, e Santoro l'ha lanciato questa accusa: noi due siamo diversamente liberi, tu non ti sei mai messo sulle barricate contro il potere, al che c'è stata la risposta stizzita di Mentana. Questo è il tema del nostro sondaggio oggi, su questo si cimenta Giuliano Ferrara nel Foglio. Michele Santoro ed Enrico Mentana discutono anche aspramente su un punto: chi di noi due è più libero e indipendente dal suo editore? Danno per assodato che la libertà di informazione dipenda dalla libertà del giornalista, dalla sua famosa schiena dritta. Ma è proprio così che stanno le cose? Si chiede Ferrara. È ovvio che viltà non fa libertà, questa si costruisce solo con la lealtà verso gli altri e verso se stessi, con una buona cultura politica e civile. Però la vera libertà di stampa nasce con la libertà degli editori, non dei giornalisti in senso professionistico. Il limite di quest'ultima categoria è chiara. Siamo, in quanto professionisti del lavoro giornalistico, tutt'altro che indipendenti. Siamo dipendenti a contratto e lavoriamo in una società di mercato aperta in cui decide in ultima istanza chi edita un giornale e rischia il suo capitale. E quella del direttore, del conduttore, dei redattori e collaboratori è una delega, non una signoria. La libertà è potersi scegliere l'editore giusto, compatibile con quel che si è e si pensa, cosa non facile in un paese in cui non esistono editori puri, ma non facilissima anche dove sono le famiglie editoriali, con i loro interessi collegati a dettare legge. Per anni ho sostenuto che la trasparenza della professione non sta nel considerarsi vestali dell'opinione pubblica, come diceva Scalfari, o al servizio del lettore padrone, come diceva l'astuto Montanelli. La trasparenza è nell'essere chiari sul proprio punto di vista politico e culturale. Il lettore ha un solo diritto vero: sapere come la pensa, come parteggia, chi scrive o parla a lui. Ora i guru dell'opinion sono quasi tutti d'accordo con questa impostazione, almeno dicono di esserlo, e vedrete che prima o poi anche la balla del giornalista con la schiena dritta, che fa quello che vuole, si rivelerà per tale. Insomma, come la pensate? Ne parliamo alle 8:30. Voglio dare qualche notizia di chiusura di cronaca, perché sono alcune spassose, alcune interessanti, alcune drammatiche come questa. Rignano ce la conferma: un giudice in aspettativa, il processo dovrà ripartire da zero. L'avevamo detto anche qualche giorno fa, non voglio neanche dedicarci un secondo di più. Eccolo qui, sul Messaggero, in prima pagina: colpo in via Condotti, travestito da prete. È entrato in una delle gioiellerie Eleuteri, quella dove va anche il Presidente del Consiglio. Colpo in via Condotti, travestito da prete, è entrato con quella mise, l'hanno fatto entrare, ovviamente, ha tirato fuori una pistola. Ed ecco qui, Nino Cirillo racconta in prima pagina del Messaggero come, travestito da prete, ha svaligiato via Condotti, una gioielleria. E poi due notizie di sport. Beh, una è questa: perché Valentino Rossi va così male? Sarà mica come scrivono che sta per diventare papa? Un bebè tra le ruote di Vale, voci di un bimbo in arrivo per Valentino Rossi, e i maligni dicono ecco perché non ne azzecca più una. Così su Libero, ma anche sul Quotidiano Nazionale, la fidanzata tunisina di Valentino, Marwa Klebi, 25 anni, neolaureata in odontoiatria, sarebbe incinta di 4 mesi, chi lo sa. E infine, sempre per lo sport, il calcio, cari amici interisti, lo so, Moratti si è molto arrabbiato. Il titolo della Gazzetta è chiaro: Calciopoli shock, Palazzi affonda l'Inter. Nel 2006, tranquilli, tranquilli, c'è la prescrizione, dunque il reato ormai si è prescritto, però il PM ha detto ci fu un illecito sportivo. Cioè, praticamente Palazzi ha detto l'Inter si è comportata come tutte le altre squadre, come la Juve, come il Milan, come le altre.